agire, fare delle cose concretamente, perché è importante che questo succeda. E tra l'altro, appunto, questo osservatorio fornisce anche degli strumenti, ma vediamo con calma. Cioè, è una organizzazione democratica, diciamo, uso questa parola nel senso che c'è anche tutto un discorso sull'educazione alla pace, magari anche un riferimento alla Costituzione, e quindi magari dal nostro punto di vista politicamente, voglio dire, ci sono delle distanze, però è molto lucido e preciso, insomma, sul fatto di trovare degli strumenti, di praticare degli strumenti di opposizione alla militarizzazione, alla guerra e anche alla distruzione, diciamo, delle differenze, delle dissidenze all'interno dell'istituzione scolastica. Magari sentiamo un po' di musica e poi continuiamo. Take this job and shove it. I ain't working no more. Couple that make the call to be the guy who could be called. You see that guy is staying away, just walking out the door. Take this job and shove it, and we'll get no more. Take this job and shove it. I ain't working no more. Couple that make the call to be the guy who could be called. You see that guy is staying away, just walking out the door. Take this job and shove it, and we'll get no more. Factory from now on 50 years. Oh, it's time I see my woman driving through the tears. I've seen a lot of people die, I have a meal to pay. I take the shirt right off my back if I had the nerve to stay. Take this job and shove it. I ain't working here no more. If I'm gonna let the corner be some dollars worth before. You may not try to stand my way from walking out the door. Take this job and shove it, I won't be here no more. That woman, he's a regular dog, that lamb, he's a fool. Got brand new skin and haircuts, he thinks he's a fool. What he did on roll my top, that's something he's gonna pay. That made you see the look on his face when they burned if I can't stay. Take this job and shove it, I ain't working here no more. Sì, allora intanto ricordiamo che l'Italia intanto in 10 anni ha aumentato le spese militari del 60%, che nel 2025 spenderà 32 miliardi e che questi miliardi verranno spesi anche per nuove armi, nuove forme d'armi, insomma, da esportare. Cioè praticamente sta puntando tantissimo l'Italia sull'industria bellica per fare profitti. Allora, torniamo all'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università. Questa docente in questa intervista a Blackout, appunto, parla della crescente militarizzazione del ruolo della scuola. Ad esempio dice questo, che io, a me ad esempio era sfuggito, che il 4 novembre da marzo 2024 è espressamente definito festa delle forze armate, festa nazionale delle forze armate, perché prima era definita festa dell'unità nazionale. Allora c'è questo provvedimento legislativo del marzo 2024, un piccolo provvedimento legislativo dove però due dei quattro articoli proprio sono incentrati sul ruolo che la scuola deve svolgere per sensibilizzare, leggo letteralmente, gli studenti sul ruolo positivo delle forze armate e sull'importanza della difesa della patria. Chiaramente in questo vengono presentate le funzioni, diciamo, di protezione civile, no? E di missione di pace delle forze armate, però c'è questo aspetto, insomma, della denominazione della giornata. Di conseguenza nelle varie città c'è l'invito proprio a portare le scolaresche alle commemorazioni del 4 novembre. E nello specifico poi si parla del Villaggio della Difesa a Roma, che è un Villaggio della Difesa inaugurato da Crosetto, dove sono stati montati simulatori di volo delle frecce tricolori, simulatori di carri armati, sì, divisori di carri armati, coi puntatori, quelle cose lì, e dove appunto vengono portate le scolaresche a giocare a queste robe. Sì, non è una cosa nuova, nel senso che basta pensare quando sono stati qua gli alpini che cosa era diventato il Parco Moretti, ma anche quando hanno fatto nella chiesa di San Francesco qua a Udine sconsacrata la mostra sulle frecce tricolori, c'era anche lì, c'era di tutto, insomma, c'erano simulatori dove la gente, ai quali la gente poteva accedere, e anche lì sono state portate regolarmente scolaresche anche di bambini di prima dell'elementare, addirittura più piccoli delle elementari. Allora, rispetto a questo discorso che si faceva della necessità di rompere la normalizzazione, e questi docenti dell'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università ci dicono che occorre preventivamente dire di no, cioè dire che non si vanno a realizzare attività di alternanza scuola-lavoro dove sono presenti le forze armate e le forze dell'ordine. Quindi ancora io aggiungo, ancora meglio sarebbe dire di no del tutto al PCTO, cioè all'alternanza scuola-lavoro, perché anche quando si va a lavorare in fabbriche non belliche non è che le cose, comunque è già una roba precisa, cioè rifiutarsi di realizzare attività di alternanza scuola-lavoro appunto dove sono presenti forze armate e forze dell'ordine. E appunto l'osservatorio invita le docenti e i docenti a non accompagnare i ragazzi e a svolgere nelle classi una narrazione diversa rispetto alla prima guerra mondiale, ad esempio, ma non solo. E difatti appunto viene sottolineato come il 4 novembre propone una visione della storia fortemente connotata ideologicamente: unità nazionale, sacrificio per la patria, unità della patria, e non, insomma, non tende a rimuovere il discorso della carneficina, dei 9 milioni di morti in tutto il mondo, del fatto dei contadini appunto mandati al massacro, eccetera. E anche tende a rimuovere anche il discorso delle diserzioni in massa e della grande mobilitazione, insomma, popolare in tutti gli stati contro la guerra. Allora, appunto, la conduttrice di Blackout ha chiesto a questa docente: ma i professori, i docenti e i dirigenti, cioè, ci stanno a questa roba di non, cioè, ci stanno a dire di no? Com'è l'atteggiamento, insomma? E lei, questa docente, ha detto: sì, i docenti iniziano a opporsi, a dire, insomma, a esporsi, anche perché l'osservatorio ha messo a disposizione degli strumenti della modulistica, diciamo, che può essere un vademecum, che può essere utilizzato per dire di no in una maniera, diciamo, inattaccabile da un punto di vista normativo, perché si sa che poi chi nel settore pubblico, non solo in quello pubblico, ma per chi lavora con le istituzioni dello Stato, arrivano anche poi i provvedimenti disciplinari, o comunque la messa al bando, l'ostracismo, insomma, se ti esponi senza utilizzare i dovuti modi, diciamo. E quindi dice questa docente, Serena Tusini: sì, i docenti iniziano a muoversi, anche a confrontarsi. Invece i dirigenti è più dura. E perché i dirigenti è più dura? Perché tendono a diciamo subire la pressione degli apparati di potere, da quelli industriali a quelli via più militari, e poi di conseguenza a fare pressione a loro volta su docenti, consigli di classe, collegi docenti, eccetera. Quindi diciamo che c'è un atteggiamento gerarchico, ma d'altro canto i dirigenti oramai sono, i scolastici sono abituati a fare così, no? Perché sono delle specie di manager, diciamo, della scuola. Io invito ad andare nel sito dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università per vedere questi documenti, che secondo me sono fatti bene anche, e ce n'è, cioè sono documenti che si rivolgono a tutti, non solo ai docenti, anche ai genitori e anche agli allievi, ai ragazzi e alle ragazze, sia minorenni che maggiorenni. E appunto ci ricorda questa docente, ci dice: bisogna cominciare ad assumere ognuno di noi una responsabilità, perché quello che sta succedendo, cioè la militarizzazione sfrenata della scuola, non è solo collegato ad una lettura o rilettura della storia, ma è collegato alle guerre e ai genocidi in corso, cioè serve a preparare la guerra che verrà, sia esterna che interna. E ci parla di una cosa interessante, di un disegno di legge delega depositato a maggio dalla Lega sul ripristino del servizio universale militare civile, che prevederebbe, questo disegno di legge delega, con delega al governo quindi, che tutte e tutti dai 18 ai 26 anni siano chiamati nuovamente alle armi, con la possibilità di scegliere eventualmente per il servizio civile. Si deve ricordare che il servizio militare in Italia non è stato abolito, è stato solo sospeso, quindi c'è la possibilità di riattivarlo. Questo servizio militare o civile durerebbe 6 mesi, ma bisogna stare in guardia, perché il servizio civile è già molto vicino al servizio militare, in quanto c'è, basta pensare alla commistione tra esercito e protezione civile, no? C'è una militarizzazione anche della protezione civile molto forte. E inoltre questo diciamo disegno di legge si collega con un progetto di legge di istituzione della riserva ausiliaria dello Stato, che prevede che chi uscirà dopo i 6 mesi appunto di servizio universale militare civile sarà inserito dentro questa riserva ausiliaria dello Stato, sia militare che civile. E questo è si rifà al modello Israele, Crosetto l'ha affermato in maniera chiara. E sì, a questo proposito ricordiamo che il servizio civile universale c'è già in Francia, per il momento è volontario, ma vogliono renderlo obbligatorio, e in Francia utilizzano questo strumento anche per cercare di riportare dentro i confini dell'ordine costituito, diciamo, le giovani generazioni che vivono nelle banlieue, che non sono governabili, no? Che lo Stato francese non riesce a governare. Ecco, e ancora solo una battuta su questa faccenda della scuola e della necessità di obiettare, di dire signor no, appunto. E è proprio di oggi la notizia di una docente di Venezia, di un liceo di Venezia, che ha commentato sui social il passaggio delle frecce tricolori su Venezia, avvenuto il 4 novembre, c'erano lì il Presidente della Repubblica e avanti. Ha commentato: frecce tricolori di merda. E a causa di questa sua esternazione, la dirigente sta pensando a provvedimenti disciplinari, mentre addirittura il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, che è anche rappresentante dei dirigenti scolastici di Venezia, dice che ci sono addirittura 2 scenari per questa docente: uno amministrativo, che è quello appunto dei provvedimenti insomma disciplinari, e un altro penale, e quindi si profila il vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate. Questo dà l'idea dell'accerchiamento anche, no? E della violenza della cultura dominante, che passa anche all'interno della scuola. Thank you. Ci stiamo ascoltando i Dead Kennedys, l'album si intitola Bad Time for Democracy, è uscito nell'86. Continuiamo con questi Dead Kennedys. The body's blessed and everything will be just fine. Just fine. We got basic tour. Brainwash your floor. And egocentric muscle bug kicks butt on speed on the ground. Won't shitter in the end of China's off. We're swinging it back, we win the war. We never should have found it all. A counterfeit terrorist to call our own. Who rewrites history with a machine gun? Don't think about it, kill it. That's what you teach your child. Rambozo, Rambozo, Rambozo the clown. Rambozo, Rambozo, Rambozo the clown. Sure looks like fun. Kill them all. Let God sort them out. That video game from that smoke and fill an axe with common sense. You can be Don Quixote. Let's just do it all in the place. Out of the brain. It means happy ending. G.I. Joe and Material 4. Great shot, no flavor, chewing gum. Painless now, but we play the key. Rambozo, Rambozo, Rambozo the clown. Rambozo, Rambozo, Rambozo the clown. War is sexy. War is fun. Iron Ego, Red Dawn. May Wolverine mail through the hills. Just get some guns and Cheerios. And you can conquer Libya. Of a fighter plane. Don't be aimed home in a wheelchair. VA hospital, they don't care. We're the machine, you're just a tool who fell for the fit. Rambozo, Rambozo, Rambozo the clown. Rambozo, Rambozo, Rambozo the clown. Rambozo, Rambozo, Rambozo the clown. Rambozo, Rambozo, Rambozo. Sì, cambiamo argomento ma non del tutto, allora parliamo di PCTO appunto, alternanza scuola-lavoro, e alternanza scuola-lavoro che uccide. E allora vi ricorderete, penso che ci si ricordi insomma di quello che successe a Lorenzo Parelli, uno studente di Udine, morto a 18 anni, morto il 21 gennaio del 2022, all'ultimo giorno di stage alla Burimec. E allora c'è stata la scorsa settimana la sentenza che condanna del Tribunale di Udine, che condanna a 3 anni di reclusione l'operaio che quel giorno era affiancato al ragazzo, a 2 anni e 4 mesi il tutor aziendale che era assente il giorno dell'incidente a causa del Covid, e a 3 anni e 23.000 euro di multa all'imprenditore. E questa sentenza, insomma, orrida, viene, cioè su questa sentenza, coglie l'occasione di questa sentenza, i compagni di Antitesi, e hanno scritto questo articolo, questo volantino, diciamo, sul caso Parelli, e appunto leggendolo come un attacco ai lavoratori, no? Oltre che agli studenti. E, c'è un equiparamento, diciamo, tra operai e padroni, e caso, cioè più che altro i padroni si trovano liberati da ogni responsabilità, pagano 4 lire, diciamo, e bon, e mentre vengono attaccate le figure che nella gerarchia, diciamo, sono agli ultimi posti, e cioè questo preposto di fatto, cioè questo operaio che affiancava Lorenzo, e il tutor della scuola, insomma, quello che doveva seguire il ragazzo in azienda. E, sì, questa è una roba, insomma, abbastanza, cioè molto dolorosa, diciamo, questo discorso di come è stato anche dopo il primo momento, diciamo, in cui la vicenda di Lorenzo Parelli era abbastanza così sentita, poi è stata come in qualche modo dimenticata, almeno qui sul territorio non ci sono state grandi cose, appunto a parte all'inizio, in cui gli studenti, che poi era il ragazzo frequentava il Bearzi, l'Istituto Salesiano, e lì c'è stata, i ragazzi si sono, insomma, un po', c'è stato un po' di agitazione, però è stato poi dopo tutto messo un po' così a tacere. E, sì, è questo, io mi ricollego, mi è venuto in mente leggendo, insomma, questo articolo, di questo volantino, ricordo anche di Lorenzo da parte dei compagni di Antitesi, questo discorso del non rimanere indifferenti a quello che ti succede intorno, insomma, nei luoghi di lavoro, di studio, eccetera, ma cioè mantenere la coscienza, cioè non farsi travolgere, diciamo, dalla normalità mostruosa del luogo in cui ti trovi a vivere, anche per sopravvivenza. Mi riferisco ad esempio alla figura del preposto di fatto, no? Questi operai che nelle aziende, anche se non hanno una nomina formale, ma vengono riconosciuti anche da parte degli altri lavoratori, e si trovano a coprire questi ruoli di responsabilità, diciamo, per la sicurezza sul lavoro, ma anche questi ruoli di, appunto, affiancatori di ragazzi in alternanza scuola-lavoro senza nessun criterio. Cioè, questi lavoratori non dovrebbero accettare di farlo, cioè anche questo è un fatto, dovrebbero disertare questo ruolo, perché è un ruolo mostruoso, è una cosa mostruosa, perché toglie la responsabilità al datore di lavoro, diciamo, al padrone, che comunque ci guadagna, perché comunque prendono sti ragazzi perché hanno un interesse a prenderli, quindi sgrava dalla responsabilità i padroni, e in più manda avanti un ingranaggio mostruoso. E sì, cioè bisogna pensare anche a queste cose. Contemporaneamente i genitori, cioè, e anche i docenti, insomma, qui viene attaccato il tutor aziendale, è ovvio che è la scuola, cioè la scuola come istituzione che è responsabile di questa cosa, non è il singolo tutor aziendale, che poi era anche in Covid, per dire, però cioè non è che non è bravo il tutor aziendale, per questo è successo l'incidente, no? È tutto un discorso più ampio, che però cioè si va ad attaccare, a colpire, diciamo, a punire con queste pene, queste ultime ruote dell'ingranaggio, diciamo, e si lascia per il resto tutto fermo, tutto regolare. E sì, niente, ci dicono nel volantino, appunto, che vi sto nominando ma non leggendo, ci dicono i compagni di Antitesi: in un perfetto connubio di interessi tra capitale, istruzione e magistratura, ci troviamo ancora una volta a piangere un morto dalla nostra parte, che non vedrà giustizia da chi porta avanti solo gli interessi della classe dominante. E dopo anni di massacri all'istruzione pubblica, sono riusciti con l'alternanza scuola-lavoro a plasmare l'istruzione su esigenze di mercato, con l'intento di abituare le future generazioni a diventare cittadini e lavoratori dediti al sacrificio, alla paga misera, alle imposizioni dall'alto. Questo passaggio è necessario alla nostra controparte in una fase di tendenza alla guerra, dove la prospettiva può essere solo quella di convincere le nuove generazioni ad obbedire, sacrificarsi nel nome della patria e del benessere collettivo. Dove non arriva la convinzione, arriva la repressione, come abbiamo visto contro gli studenti a Torino, che per aver protestato contro le morti degli studenti in PCTO si sono visti addirittura piombare sulla testa gli arresti domiciliari. Lo vediamo oggi con il nuovo DDL 1660, che in continuità con i governi precedenti colpisce specificamente i lavoratori e in generale chi si mobilita per i propri diritti. E bon, e quindi questo insomma era un po' così, sì, una riflessione insomma su questo, su questa sentenza sul caso Lorenzo Parelli, e anche un modo per ricordare insomma questo ragazzo che ha fatto questa brutta fine. Ora ci stiamo ascoltando i Vivi Sectio, band finlandese, e l'album si intitola 1984. We'll be right back. Un saluto a tutti voi che ci ascoltate per questa puntata di Zardins Magnetics di giovedì 7 novembre, anniversario della rivoluzione di ottobre. Voltiamo pagina dopo gli interventi relativi al così alla diserzione coniugata nelle, insomma, nei tutti i possibili momenti e scontri che si hanno quotidiani. Voltiamo pagina. Io volevo velocemente fare un evidenziare, dare importanza a questo fatto che è successo ad Atene lo scorso 31 ottobre, quindi una settimana fa. Allora, 31 ottobre 2024, il compagno anarchico Kriakos Simitis muore in seguito all'esplosione di una bomba nelle sue mani in un appartamento di Ampelo Kipoi, un quartiere di Atene. Cosa è successo? Appunto, mentre stava manipolando questo ordigno, cose che succedono, è rimasto ucciso. E la questione è che si trovava dentro un appartamento che è stato sventrato completamente. Una compagna è rimasta gravemente ferita in terapia intensiva e poi c'è anche una inquilina del condominio, insomma, che è rimasta ferita. Al di là di questo, c'è una mobilitazione in corso ad Atene perché l'antiterrorismo della polizia greca sta scatenando una campagna campagna terroristica, questa sì, nei confronti di questi compagni, non solo del compagno deceduto, ma anche di altri compagni coinvolti e anche di coinvolti direttamente per questioni di chiavi e di contratti con padroni di casa, eccetera, e anche per non solo, ma anche per contatti, appunto, di questi compagni e amici e familiari. Quindi, oltre ai ai comunicati che sono già usciti tradotti in italiano, volevo aggiornare, insomma, la notizia di stamattina. Ecco che la situazione è questa. Allora, c'è un compagno, Kriakos, che è deceduto, un'altra compagna anarchica, Marianna, che è in terapia intensiva e all'ospedale e ma in arresto. Poi ci sono altri due arrestati, una compagna che si chiama Dimitra, che si è consegnata, insomma, è rientrata in Grecia, è stata arrestata anche lei, e un altro compagno, di cui non si conosce il nome, che comunque si trovava ad Atene ed è stato anche, si è, diciamo, fra virgolette, costituito spontaneamente, ma anche lui è detenuto in arresto. Quindi c'è questa situazione dei media, dei mainstream, che stanno dando il massimo spazio alla denigrazione da parte dell'antiterrorismo, e dall'altro lato c'è una mobilitazione che dice che, appunto, questi compagni sono perseguiti con l'accusa di costituzione e adesione a organizzazione terroristica. La miseria, vi leggo appunto un comunicato che ho scritto ieri, la miseria e la vendicatività del meccanismo statale sono state evidenti fin dai primi momenti, con i poliziotti che hanno deriso per giorni i genitori del nostro compagno Kriakos, morto, dicendo loro che non era lui. Inoltre, mentre l'altra compagna Marianna era ancora in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva, i poliziotti hanno proceduto a prendere le impronte digitali. Non solo, è prevista per domani mattina l'interrogatorio del magistrato che si recherà in ospedale, nonostante che il difensore della compagna abbia fatto un quadro, insomma, realistico della situazione di salute, per cui la persona non sarebbe in grado di sostenere un interrogatorio, e chiedeva una, diciamo, un rinvio di questo interrogatorio, ma nonostante questo l'apparato repressivo ha respinto, diciamo, l'apparato repressivo giudiziario ha respinto questa richiesta di rinvio. Ecco, quindi niente, vedremo come si sviluppa la questione. C'è una grossa mobilitazione in Grecia in questo momento, questi erano compagni che erano pronti all'azione, indubbiamente, per questo vengono criminalizzati da un apparato, diciamo, repressivo e militare che è più che mai, diciamo, col coltello tra i denti, e in questa fase spinge al massimo, diciamo, l'oppressione verso appunto gli sfruttati e le sfruttate, quindi non hanno nessuna, non devono scusarsi di niente, ecco, questi compagni qua molto determinati, e vedremo appunto come reagiranno, come evolverà questa vicenda, ecco, nei prossimi giorni. E intanto solidarietà, ecco, loro non hanno bisogno chiaramente della nostra, così, della nostra propaganda, della nostra, dei nostri discorsi, ma comunque è importante sostenere, ecco, che abbiano il nostro appoggio incondizionato. Ecco, e per quanto riguarda invece la seconda parte di questa puntata di Zarlins Magnetics, c'è un percorso che avevo pensato di fare, diciamo, degli stimoli vari che ci sono, che mi si sono presentati, che vorrei così sottoporvi, con l'auspicio che siano di qualche stimolo anche per voi. Si parte, quindi, l'argomento un po' così ampio, però è quello, la situazione, diciamo, di contraddizioni varie, insomma, che comporta lo sviluppo, partiamo, ecco, da qui, lo sviluppo della cosiddetta intelligenza artificiale. Poi faremo appunto dei passaggi ad altro, cioè a cose non altre completamente, ma ecco, che sono adiacenti, diciamo, in qualche maniera, a questa questione. Si parte da questo contributo, cioè partiamo da questo fatto che è stato dato il premio Nobel, avrete sentito, non mi ricordo adesso specificamente su quale disciplina, ma è stato dato il premio Nobel a un informatico che si chiama Jeffrey Hinton, che ha 75 anni, se non sbaglio, sì, del 49, quindi 75, è uno studioso delle reti neurali profonde, ma io ve l'ho presentato come informatico, appunto, perché vorrei partire da questa questione. Allora, c'è un articolo tradotto dal sempre così sempre stimolante Istrix, Gli dei della logica, una traduzione di un articolo di questo Benjamin Labatut, che è cileno, è un così uno divulgatore, chiamiamolo, non so, uno che scrive libri tradotti anche in italiano, diversi libri, si occupa di varie cose, insomma, salta, insomma, compara sono varie discipline comparate, comunque un approccio così culturale comparato alle questioni. In questo articolo che era stato pubblicato su Harper Magazine nel luglio di quest'anno, 2024, si intitola Gli dei della logica, prima e dopo l'intelligenza artificiale. Lui a un certo punto, dopo aver evocato varie questioni, varie suggestioni, arriva a, appunto, questo Jeffrey Hinton, che era il pronipote, è pronipote del matematico George Boole. Allora, George Boole chi era? Era un bambino prodigio irlandese. Me lo sono inventato io, forse non so. No, è diventato poi professore del Queen's College di Cork, ma non è specificato se era irlandese. Comunque, se voi avete avuto a che fare nella vostra vita con gli ambiti dell'informatica, quando avete iniziato i primi passi, sicuramente, penso ancora oggi, si faccia si parta da questa logica booleana ancora. E che cos'è? Sono praticamente, no, logica, algebra. Cioè, sono un insieme di espressioni formali, diciamo matematiche, algebriche, ecco, si capisce cosa vuol dire, algebriche, che sono rappresentazioni di proposizioni logico-formali, ecco, l'implicazione, la disgiunzione, queste questioni qua, si parte, non mi dilungo adesso, però questo è il discorso, insomma, formalizzare la realtà da un punto di vista di proposizioni, ecco. La pretesa di mettere in piedi una rappresentazione della realtà di cui, diciamo, poi diremo meglio, ma, della realtà da un punto di vista costruendo delle proposizioni, è nel corso degli anni poi è fallita. Allora, questo Boole era un matematico, ha ideato questa algebra a metà dell'Ottocento ed è rimasta là. A metà degli anni, negli anni 50 del Novecento, qualcuno l'ha ripresa in mano. Perché? Perché è capitato di associare praticamente il funzionamento del neurone, quindi dei processi cognitivi della mente, sono stati rappresentati, appunto, descritti con la logica binaria. Per questo, appunto, gli è stata associata la logica di Boole. Quindi, assemblando vari elementi, si è messa in piedi una rete in grado di eseguire i calcoli della logica di Boole, i famosi circuito aperto chiuso, che poi, appunto, simbolico, ma poi diventavano relè, poi diventavano, appunto, dispositivi elettronici e via avanti. Quindi, corollario di tutto questo discorso è: il cervello assomiglia a una macchina a neuroni, però questi neuroni erano ideali, appunto, erano una rappresentazione, non erano, cioè non erano neuroni biologici, perché nessuno, diciamo, si sono avvicinati con un modello al funzionamento esterno, al funzionamento esterno di questi neuroni, ma poi nessuno è in grado di riprodurre un neurone ancora, no? Reale. Arriva appunto fallimento di questo, di questa impresa, di appunto, si capisce dopo un po', insomma, arriviamo agli anni 60, si arriva a capire che questo percorso è destinato a fallire, soprattutto perché appunto non esiste una logica appunto nella realtà, no? Cioè la logica è una creazione, diciamo, nostra, umana, di sopravvivenza, ma non è che ha corrispondenza nella caoticità della realtà, no? Il pensiero è diverso dalle proposizioni, il nostro pensiero comprende appunto contraddizioni, varie cose che non possono essere rappresentate solo sulla base, solo limitando alle proposizioni logiche. Questa cosa qua è stata acquisita e appunto c'erano questi due, McCulloch e Pitts, che avevano appunto elaborato questo modello qua del neurone, e dice: se il loro modello dimostrò che i neuroni artificiali sono in grado di simulare complessi processi cognitivi, si rivelò essere troppo limitato per catturare un'intricata complessità, tutta l'intricata complessità delle reali menti biologiche. Col tempo i loro neuroni altamente idealizzati furono scartati, ignorati dagli scienziati che lavoravano per cercare di capire il cervello, e sostituiti da schemi differenti. A questo punto entra in gioco questo Jeffrey Hinton. Negli anni 80 promosse un approccio basato sulle reti neurali profonde, astrazioni matematiche del cervello, in cui i neuroni sono rappresentati non più appunto col aperto chiuso, ma sì, con l'interruttore, ecco, diciamo così, ma diventano un codice. Semplicemente alterando la forza delle connessioni tra i neuroni, cambiando il numero adoperato per rappresentarle, la rete poteva imparare da sé. Cioè, poi questa cosa che mi ha colpito, in un'intervista l'anno scorso rilasciata alla MIT Technology Review, Hinton ha detto: i corvi possono risolvere enigmi e non hanno linguaggio. Lo fanno cambiando la forza delle connessioni tra i neuroni nel loro cervello. Dunque deve essere possibile imparare cose complicate cambiando la forza delle connessioni in una rete neurale artificiale. Allora, come avrete sentito, in seguito, per quello l'hanno premiato col Nobel, Hinton ha fatto, diciamo, si è reso conto che questa questione dell'intelligenza artificiale è pericolosa, ha dato le dimissioni da Google, era vicepresidente. Primavera 2023 Hinton ha abbandonato il suo impiego di vicepresidente di Google per mettere in guardia il mondo dai pericoli rappresentati dal frutto del suo ingegno, eccetera. Insomma, dice che insomma in realtà questi codici che fanno girare l'intelligenza artificiale non sono un pezzo di hardware. Il pezzo di hardware può distruggersi, ma questi codici basta aver salvato il weight, che letteralmente è il peso, cioè sono tutti i parametri che vengono regolati, sto leggendo, durante il processo di formazione per ridurre al minimo la differenza tra il risultato effettivo e quello target, valori numerici associati alle connessioni tra i neuroni, nodi, reti neurali chiaramente, attraverso diversi strati della rete. Non entriamo di più di così, che è già sufficiente per quello che volevamo dire. Ecco, quindi L'unico commento a questo discorso che voglio fare io è appunto, l'ho trovato e lo riprendo da un commento su YouTube a un video dove Hinton si prendeva a gioco un po' di Noam Chomsky, insomma lo ridicolizzava un po', quello adesso a noi non ci interessa. Dice questo utente, dice: quello che fanno i tipi come Hinton è scrivere codici, hanno una loro visione di come funziona il cervello, senza avere idea se sia corretta. Sulla base delle loro ipotesi costruiscono i loro sistemi di intelligenza artificiale, è il motivo per cui coltivano questa visione del cervello umano, perché essa è utile nel loro lavoro di costruzione dell'architettura del codice, non perché assomigli al cervello umano. Ecco, quindi in sintesi la questione è, sì, è vero che c'è una, diciamo, una dimensione di minaccia in questa, in queste, chiamiamole creature, in questi artefatti, ecco, che sono gli algoritmi dell'intelligenza artificiale, è vero, è sempre però da tenere a mente che è cosa altra dalla creatività umana, non perché sia più scadente, insomma, ma secondo me è un rischio quello di considerare questi discorsi, di fare allarmismo, di dire siamo perduti perché insomma ci assorbiranno, perché noi spariremo. Sì, può darsi che spariremo, ma non è che, cioè, non è che ecco, si produrrà un'altra intelligenza superiore dall'intelligenza artificiale. Rimangono sempre questi qua, sono sempre a fin fine sono dei chip, insomma, di silicio, ecco, non scorre la vita, per essere, ecco, chiari. Se riusciamo, andiamo avanti su questa, su questa, su questa, sì, su questa considerazioni che volevo fare stasera. E continuiamo ad andare avanti sul, appunto, come si può ecco riassumere quello che è questo modello di neurone, ecco, il neurone ideale, ideale quello appunto messo in piedi da questi studiosi, questi teste di uovo, ecco. È vero che hanno una loro realtà, cioè no, è vero che hanno delle loro possibilità oggettive, cioè dentro, per come le conosciamo adesso, queste strutture hanno dei loro rischi, ecco, indubbi, come ci mette in guardia Jeffrey Hinton, ma da tener conto appunto che hanno anche delle possibilità reali, ovvero delle possibilità che possono essere effettive, ma che noi ancora non scorgiamo, cioè, voglio dire, possono essere contrastati, mettiamola così, attraverso dei punti di vista che a noi non sono ancora chiari, ecco. Per fare questo adesso io volevo saltare appunto su questo altro articolo che avevo trovato, tradotto da un blog che si chiama Nigredo, parole dallo scisma, e il titolo dell'articolo in francese era Biforcazione nella civiltà del capitale, più o meno anonimo, comunque una rivista che si chiama Entêtement, intestardirsi, cosa del genere, area più o meno autonomia francese. Ecco, biforcazione della civiltà del capitale, non vi faccio tutto non vi espongo l'articolo, era solo uno spunto, insomma, incuriosirvi. Ma appunto tira fuori questa questione del possibile oggettivo, possibile reale, che è dovuto a Bloch, Ernest Bloch. Obiettivamente possibile è tutto ciò il cui verificarsi sia scientificamente attendibile, o almeno non possa venire escluso sulla base di una conoscenza semplicemente parziale delle sue presenti condizioni. Presenti. Realmente possibile è tutto ciò, invece, le cui condizioni non sono ancora completamente radunate nella sfera dell'oggetto stesso, sia che debbano ancora maturare, sia che soprattutto emergano le nuove condizioni, mediate da quelle già esistenti, necessarie per la nascita di un nuovo reale. Questo articolo si sviluppa attorno a queste, al problema del capitalismo e del raggiungimento dei limiti estremi e del superamento dei limiti che possono essere sostenuti dalla natura per tenere in piedi il capitalismo. Ecco, allora, già Cesarano e Collu avevano affermato che c'è una biforcazione tra capitalismo illuminista e capitalismo terrorista. Per dire le cose veramente in sintesi, quello terrorista lo associamo ad esempio a uno come Elon Musk, cioè quindi il discorso di sfruttamento delle risorse, di assorbimento di tutte le forze di assoggettamento al processo di valorizzazione, non solo oltrepassa i limiti di possibilità del pianeta della natura terrestre, ma addirittura si proietta anche sui pianeti del sistema solare, con questo appunto delirio di raggiungere appunto gli altri mondi dove impiantare praticamente il processo di valorizzazione. Questo è il capitalismo terrorista, quindi senza limiti. Più insidioso ancora è il capitalismo illuminista, cosiddetto da Cesarano e Collu. Cosa dice questo capitalismo illuminista? Allora, sì, leggo un estratto, ecco, che una citazione di Cesarano da Apocalisse Rivoluzione, che appunto citano questi estensori di biforcazione nella civiltà del capitale. A mano che il processo di valorizzazione ha per oggetto esclusivo la sopravvivenza autonomizzata del valore oltre i suoi limiti di crisi, esso integra a sé nella composizione organica del valore la sopravvivenza della specie, come crisi in processo della vita, e la integra a sé. Okay. È in questa fase di integrazione all'essere capitale dell'essere della specie che la controrivoluzione entra in gioco quale meccanismo di autoregolazione al servizio diretto della razionalizzazione capitalista. La facciamo breve: praticamente il processo di valorizzazione si sposta quindi dall'esteriorità, cioè da quello che ci circonda, quindi dalla spinta a produrre, dalla spinta a estorcere appunto valore da ogni tipo di inizialmente dal produrre, poi addirittura anche da tutti gli altri a catene, insomma da tutti gli altri momenti, ecco, della vita, diciamo così, lavorativa, e il processo si sposta e viene attaccata consapevolmente l'interiorità, cioè non solo appunto gli aspetti lavorativi delle fasi, diciamo così, dove appunto la forza lavoro, cioè appunto l'umanità è messa completamente asservita come forza lavoro, per cui ecco, parentesi, al momento in cui scoppia, ecco, diciamo così, il 68, il proletariato, chiamiamolo così, poteva ancora prospettarsi una dimensione di liberazione dal lavoro, perché appunto c'erano momenti che non erano ancora completamente assorbiti dal ciclo di valorizzazione del capitale. Questa cosa qua progressivamente, perché non c'è stato più quel livello di estensione della rivolta anti-autoritaria, insomma di sperimentazioni di varie insomma pratiche eccetera eccetera, perché appunto progressivamente si sono andate a chiudere quelle possibilità di appunto ancora libere dal processo di valorizzazione, e questo insomma questo progetto del illuminista del capitale si è spinto in tutte le fasi della quotidianità, come avevamo già diciamo affrontato questa questione anche in altre serie di Zernis Magnetics. E io direi che prendo un momento il fiato, veramente un minuto, e poi concludiamo, cerchiamo di concludere. Eccoci, cerchiamo così di concludere questo discorso sulla biforcazione della civiltà del capitale. Appunto, siamo partiti invece dall'intelligenza artificiale, dal premio Nobel Geoffrey Hinton. Siccome appunto c'è questo processo di colonizzazione dell'interiorità, dal punto di vista del capitale è una possibilità reale, appunto, cioè lui il capitale non sa ancora bene come, ma quello lì è il suo progetto, vuole appunto colonizzare, rendere concretamente diciamo autonoma tutta una serie insomma di momenti della vita umana, ecco. Vedremo come va a finire, non lo sappiamo ancora. Ci sono prove appunto di questa, vedi appunto il transumanesimo, vedi sì appunto i progetti anche di Elon Musk di insomma vari di trasferimento della realtà su questa, come la chiamano loro, insomma realtà parallela che adesso mi sfugge, ma comunque. Mentre c'è questa questione, facciamo un passo, diciamo, ancora un passo, andiamo a un altro autore che è Jacques Camat, di cui forse vi avevamo già dato qualche notizia, comunque ambito bordighista, diciamo così, sui generis, ha messo in piedi questa rivista che si chiamava Invariance durante tutti gli anni 70 e 80, ancora oggi contribuisce insomma al dibattito. Cosa ci porta di un ulteriore stimolo stasera? Lui dice, scrive insomma, che È vero che c'è questa dimensione, chiamiamola così, illuministica del capitalismo. Allora c'è stato sicuramente il tentativo della psicanalisi per essere, insomma, per fissare un punto. La psicanalisi ha identificato nella repressione, nell'oppressione che subiscono, cioè che si subisce nell'infanzia, un tratto essenziale, ecco, di questo processo di, diciamo, di emancipazione, che a un certo punto sembrava, ecco, tornando al 68, c'era l'illusione di un accesso a una dimensione di piacere, diciamo così, che andava parallelo col consumismo, no? Alla fine si è capito che questo era, appunto, perché illusorio, perché non era stato identificato cioè che l'inibizione di questa fase infantile c'era un perché, andava, insomma, data la responsabilità alle varie generazioni di genitori, cioè il ruolo di genitore, insomma, in sé, con il processo di civilizzazione, comporta una dimensione di oppressione, non solo, comporta tutta una nascita di, lui le chiama psicosi, insomma, possiamo dire anche, passiamo a un altro, insomma, facciamo un volo pindarico, passiamo anche a Stirner, a Max Stirner, insomma, queste psicosi potrebbero essere anche dette, diciamo, ecco, i fantasmi, momenti illusori, cioè degli strumenti con i quali, appunto, l'individuo si difende, ecco, da questi traumi infantili, e progressivamente se li porta avanti anche, diciamo, nell'età evolutiva, poi nell'età adulta, continua, insomma, finché non mette, rende inattivi tutti questi strumenti che gli servivano, appunto, a difendersi, però gli impediscono un accesso diretto alle pulsioni, chiamiamole così, lui le chiama così, Kamat, delle più autentiche della vita. Finché non le rende inattive, continua, appunto, a dare un'importanza sbagliata alla dimensione collettiva, e invece la questione va, cioè i problemi vanno, appunto, radicarsi nell'individualità. Questa cosa, ecco, per noi riteniamo significativa per le cose in varie, insomma, che diciamo qua a Zardins Magnetics. Ultimo, veramente, suggestione di questo intervento di Jacques Kamat, che si intitolava, tradotto in italiano, Dialogando con la vita, ed era un intervento della fine degli anni 90, e la questione, appunto, del neonato, neonato che a un certo punto ha paura di cadere, insomma, quando si trova ancora in posizione che non ha ancora imparato a camminare, diciamo così, c'è questo riflesso in lui nel momento in cui insomma, percepisce uno stimolo di pericolo, come un rumore inatteso o una scossa inattesa, ecco, eccetera eccetera. Lui, quando percepisce, lui o lei, quando percepisce questo pericolo, alza le braccia. Le due braccia del neonato si tendono bruscamente in verticale, come per stringere qualcosa, e ricadono. Il riflesso interviene in risposta a uno stimolo, il cui protrarsi costituirebbe un pericolo. Finisce la citazione da questo altro autore, diciamo, pedagogia, eccetera. Il bambino normalmente deve essere in contatto con sua madre, dice Kamat. Quando sopravviene lo stimolo di cui parla l'autore, il bambino tende a aggrapparsi a quest'ultima per non cadere. ricordo filogenetico della vita arboricola che i nostri antenati hanno conosciuto. Quindi dunque, all'origine insomma della specie Homo sapiens, ovviamente prima della posizione eretta, i nostri antenati erano insomma primati, vivevano per proteggersi soprattutto dai predatori sugli alberi, e i cuccioli appunto rimanevano aggrappati costantemente alla loro madre. Dato che non oggi invece insomma in condizioni di civilizzazione, dato che non vi si può aggrappare perché è separato, non afferra niente e lascia andare le braccia, no? Ora, il lasciare andare comporta normalmente la caduta, di conseguenza il neonato percepisce virtualmente la caduta ed è angosciato dal fatto di non essere in contatto, primo, e secondo è angosciato anche dall'inganno di ciò che prova: la caduta è solo virtuale. Quindi il fatto che la madre non porti costantemente il neonato, come lo faceva la sua antenata, non sia in contatto permanente con lui, genera l'angoscia in tutte le sue forme ed è causa di ciò che viene chiamato la morte prematura del neonato. Ecco, siamo veramente agli sgoccioli, ma comunque quello, insomma, la tesi a cui arriva Cammatta appunto è che tutte gli sforzi, la tensione deve essere appunto primaria, non per un ripiegarsi sull'individuo, appunto perché per non trascurare questo aspetto che non è secondario, è radicale dell'individualità. Ecco, quindi e i fallimenti delle rivoluzioni, come aveva insegnato Marx sulle rivoluzioni dell'Ottocento, del XIX secolo, insegnavano, la controrivoluzione insegnava qualcosa sull'essenza della rivoluzione, no? Quindi le sconfitte di una parte e le vittorie dell'altra avrebbero insegnato alla talpa, che era appunto in quel caso il proletariato che scavava, continuava a scavare, no? Anche se non appariva in superficie, ma continuava a scavare per la rivoluzione. Lo stesso, diciamo, in parallelo si può dire della coscienza, no? Della coscienza dell'individuo che deve continuare a scavare per raggiungere l'individualità vera e propria, cioè deve appunto rendere inattive questi automatismi della civilizzazione che ci hanno allontanato, non solo la civilizzazione, anche il processo di valorizzazione, come avevamo detto nel precedente insomma articolo che abbiamo preso in esame. E quindi questo insomma uno stimolo di questo genere qui, penso che ci ritorneremo insomma, se non nelle prossime puntate, anche più avanti lo metteremo in così a reagire con altre questioni, e per il momento io ho finito, ma continuiamo ancora qualche minuto. E in sottofondo siamo passati agli Inner Terrestrials, mentre prima ci siamo ascoltati Soviet Order Zero, band di Milano, e prima ancora, durante come sottofondo degli interventi precedenti, i Fight on Sight. Niente, siamo quasi giunti al termine della trasmissione e passo la parola alla compagna che parlerà delle prossime iniziative. Ciao. Sì, allora siamo veramente un po' in ritardo. Anche io volevo ricordare un'iniziativa che ci sarà qui a Udine domani, venerdì 8 novembre alle ore 20:30 nello spazio autogestito di Via De Rubeis 43. Si tratta di un incontro con un compagno dei ferrovieri contro la guerra, e che verrà a presentare questo loro lavoro, insomma questo bollettino dei ferrovieri contro la guerra, ma non solo il bollettino, anche un po' il progetto che sta, che questi lavoratori delle ferrovie portano avanti. Allora, vi dico solo questo: in questo bollettino loro dicono chiaramente: non vogliamo essere complici dei massacri in ogni parte del mondo e non vogliamo scortare convogli carichi di strumenti di morte pronti a essere utilizzati. Questo bollettino si materializza, diciamo, compiutamente dopo il 15 aprile scorso, giorno nel quale viene siglato questo accordo Leonardo e RFI. E questo accordo riguarda l'infrastruttura ferroviaria italiana e praticamente si propone di assicurare la movimentazione di risorse militari all'interno e all'esterno dell'Europa, anche con breve preavviso e su larga scala, e in situazioni ordinarie e straordinarie, quindi su qualsiasi tipo di treno, diciamo, di convoglio, e il trasporto di materiale militare sarà realizzato attraverso infrastrutture dual use su binari e impianti sottoposti alla supervisione e al controllo di Leonardo attraverso tecniche avanzate di intelligenza artificiale. Allora, una volta ci dicono i compagni ferrovieri contro la guerra, una volta ufficializzato e reso pubblico l'accordo, abbiamo ritenuto di dover dare una risposta immediata per far sentire la voce dei ferrovieri contro la guerra. Ecco, e di questo appunto parleremo domani con il compagno. Ricordo ancora, spazio autogestito di Via De Rubeis 43 a Udine. Alle 20:30 appunto parleremo di questa ulteriore forma di renitenza e diserzione dalla società della guerra. Why the fuck are you telling me what's for the best? Sort yourself out, feather your nest, and to hell with the rest. You bang out a lack, you can struggle it through a